Secondo me hai ragione, io più che di braccio di ferro adesso oramai si è trasformato più in una partita di ping pong, nel senso che certamente credo che sia abbastanza evidente a tutti che i toni si sono abbassati moltissimo, e questo probabilmente è dovuto al fatto che, anche se sono negati da tutti da un punto di vista, come dire, ufficiale, però certamente c'è stata qualche telefonata da qualche esponente europeo, sia all'ufficio di Mariano Rajoy che all'ufficio di Carles Puigdemont, per cui in realtà è un po' stancante, perché in effetti sembra che non si proceda mai, ma in realtà è così ormai da tanti anni, in questo lungo processo che va avanti, insomma, almeno 4-5 anni, in cui non sembra che si faccia mai nessun passo in avanti, e anche in queste ultime fasi sembra un po' così. Stamattina, prima verso le 9, Carles Puigdemont ha risposto alla richiesta formale del governo Rajoy, che gli chiedeva di sapere se era stata dichiarata o no l'indipendenza, e gli aveva risposto, come era ovviamente previsibile, con una risposta così ambigua, esattamente come la dichiarazione che aveva fatto martedì scorso davanti al Parlamento, in cui non diceva né sì né no, ma diceva parliamone, sostanzialmente, questo in estrema sintesi. E a questo punto il governo, che certamente al suo interno ha molti falchi che vorrebbero già rispondere con l'esercito e quant'altro, in realtà ha dato una risposta, anche loro hanno dato una risposta ambigua, nel senso che hanno detto no, vabbè, non avete risposto ancora alla domanda, rispondete, avete tempo fino a giovedì per rispondere che non avete dichiarato l'indipendenza. Quindi in qualche modo sono stati presi altri 4 giorni di tempo per capire un po' che cosa succederà, e sono sicuro che giovedì, se non ci sono dei passi in avanti in questi giorni, ci sarà un altro escamotage per prendere un altro pochino di tempo. L'unica opzione che io vedo possibile, a parte, come dire, quella più ragionevole, che sarebbe quella in qualche modo di trovare un modo per iniziare un dialogo, l'altra opzione, che è, diciamo, la seconda in ordine di sia di mia preferenza personale che di probabilità, è quella che il governo spagnolo alla fine decide di applicare una versione il più soft possibile di questo famigerato articolo 155, per la cui attivazione, voglio ricordare, c'è comunque bisogno di un voto del Senato, quindi ci saranno altri giorni, e dopo che arriva l'autorizzazione del Senato, che certamente arriverà perché nel Senato il Partito Popolare ha la maggioranza assoluta, il governo può decidere ancora se applicarlo o non applicarlo. Quindi, voglio dire, se si vogliono allargare i tempi e quindi in qualche modo dilazionare lo scontro, ci sono amplissimi margini per farlo. Però, appunto, sempre sull'articolo 155, nel caso in cui Madrid decidesse di applicarlo invece in modo radicale, che conseguenze potrebbero esserci in Catalogna? Chi lo sa, perché in realtà l'articolo 155 non è mai stato applicato, è uno di quei classici articoli che erano stati scritti per sostanzialmente rendere buoni i franchisti, perché come sapete la Costituzione spagnola è nata un po' da un accordo fra varie parti, una delle quali erano i franchisti, gli eredi del dittatore Franco, e però era stato scritto per non essere mai applicato in realtà, per cui non solo non è mai stato applicato, ma non esiste neanche una legge, diciamo, costituzionale che spieghi come dovrebbe essere applicato. Per cui cosa vuol dire molto radicale? I più, come dire, più guerrieri vedono, non dico l'esercito per strada, però certamente l'arresto di tutti i membri del governo, la sostituzione con un commissario governativo, altri invece vedono semplicemente, come dire, l'assunzione di responsabilità molto concrete da parte del governo centrale, e per esempio in particolare l'opzione che in questo momento secondo me è più probabile è che semplicemente il governo centrale si limiti a sciogliere il governo catalano e a convocare le elezioni, che sarebbe, come dire, la via di uscita probabilmente più soft dell'applicazione di un articolo che comunque è molto controverso e che certamente lascerebbe abbastanza strascichi.